centrocampo, comunque da tre quarti, un sinistro al volo impressionante. Tutti convocati di Giovanni Capuano. È la vigilia di Ferragosto, ma noi siamo qui e vi convochiamo tutti. Oggi però vogliamo giocare un po'. Oggi proviamo a sorridere guardandoci indietro, guardando alla stagione che si è conclusa. Oggi proviamo a fare le nostre personalissime classifiche, il meglio e il peggio del nostro calcio, il meglio e il peggio anche come protagonisti, perché molti di questi personaggi li ritroveremo anche dopo questa settimana di Ferragosto, pronti a riempire le nostre domeniche. Buon pomeriggio a Fabrizio Bocca, collega di Repubblica. Ciao, buon pomeriggio. Ciao Fabrizio, buon pomeriggio. Mettendoli insieme ci sono alcuni idoli assoluti, spesso ci lamentiamo del livello del nostro calcio, delle polemiche, dei botte e risposta, però la verità è che poi quando non ci sono un po' ci mancano, no? Ma direi di sì, insomma, sai, è difficile fare a meno di personaggi come, non so, come Toir, direi, in quest'estate abbastanza calda, di cui è diventato un tormentone e di cui abbiamo parlato tantissimo, oppure, voglio dire, come affari di mercato, direi Cristiano Ronaldo, Bale, insomma, sono personaggi che hanno tenuto bella bollente quest'estate, direi. Sì, io poi, se parliamo di calcio mercato, ad esempio, impazzisco per i tormentoni, ad esempio a luglio non si poteva giocare a calcio senza Nainggolan. Nainggolan quasi fosse diventato il centro del calcio mondiale, ma ce ne sono altri. Il Milan che inseguiva Olajuwon per risolvere il problema del gol. Andatevi a vedere le statistiche di Olajuwon, ad esempio. Però noi ci innamoriamo di queste storie, di questi nomi, di questi tormentoni. Ma sì, sai. Anzi, devo dire che questo è stato un calciomercato tutto sommato con nomi molto importanti, sono cominciati a tornare dei grandi calciatori in Italia come Gomez, come Higuain, come Tevez, per cui direi anche che ci è andata abbastanza bene, però sai, poi ci sono anche squadre, grandi squadre che si adattano poi anche agli Honda, ai Belfodil o anche ad altri giocatori un po' così, insomma, ecco. Noi però vogliamo dare un'occhiata anche a quello che è stato fino a un paio di mesi fa, perché poi, lo ripeto, questi personaggi ce li ritroveremo e ci faranno anche sorridere. Allora noi oggi costruiamo la nostra classifica del peggio e del meglio e la usiamo come spunto per fare due chiacchiere con Fabrizio Bocca. Fabrizio, se sei d'accordo, partiamo dal peggio? Va benissimo. Partiamo dal peggio e da un presidente che io temo l'anno prossimo un po' ci mancherà, perché il suo Palermo è finito in Serie B, però anche quest'estate ha esternato. E allora Maurizio Zamparini. Ho pensato, di parte con l'ambizione di tornare su subito, per cui alle volte le disgrazie servono per ripartire meglio, io penso che sia così e noi ripartiremo meglio. Ma direi al momento sì, in questo momento non sono deluso, sono molto combattivo. Quando uno retrocede c'è fatto un concorso di colpe, sono le cose che non vanno, no? Compresa la sfiga, che quando se la prende con te, buonanotte. Idolo assoluto Zamparini, quanto lo quotiamo l'esonero di Gattuso, Fabrizio Bocca? Ma sai, voglio dire, io ho perso addirittura il conto di quanti allenatori Zamparini abbia cambiato nella sua sì, carriera. Sì, ma l'ha perso anche lui, temo. Probabilmente l'ha perso anche lui. Però l'altro giorno ho letto anche che tutto sommato è da considerare un benefattore della categoria, perché credo che abbia stipendiato lui più allenatori quasi di calciatori. Sai, Gattuso è uno dall'animo abbastanza caldo, quindi non so quanto si possa prendere con Zamparini, quanto possa abbozzare di fronte a certe uscite di Zamparini, quindi non lo so. Altro che telecamere negli spogliatoi, flash interview. Io credo che il vero format sarebbe poter mettere le telecamere nelle stanze dove si fanno le riunioni tra Zamparini e Gattuso. Noi stiamo scherzando, Gattuso sicuramente avrà una straordinaria carriera da allenatore e tra l'altro è stato coraggiosissimo a iniziare da Palermo, però io ho letto

Ve l'avevo promesso, adesso torniamo seri dopo aver scherzato per una mezz'oretta con Fabrizio Bocca. Adesso torniamo seri e parliamo invece di preparazione atletica, parliamo di questo precampionato che le squadre italiane, non solo, soprattutto i top club, hanno trascorso in giro per il mondo raccogliendo in qualche caso qualche figuraccia e chissà se preparando davvero nella maniera corretta la stagione. Abbiamo convocato due addetti ai lavori che ci possono aiutare. Io ringrazio e saluto intanto Vincenzo Pincolini. Buon pomeriggio Pincolini. Buon pomeriggio a voi. Decano dei preparatori atletici italiani, un uomo che ha in parte scritto il modo con cui i club si preparano, non solo in Italia, in questo momento. Saluto anche Mimmo Di Carlo. Buon pomeriggio Di Carlo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon pomeriggio. Allora Pincolini, gambe imballate, poco fiato, abbiamo visto di tutto in questa prima metà del mese d'agosto. Io credo che Mazzari, lo abbiamo sentito prima, ma avremmo potuto far sentire Conte, Allegri, Benitez ad esempio, abbiano ragione tutti loro quando dicono che la preparazione pesa tantissimo nei risultati e in quello che si vede in campo, o no? Ma io, sì, sicuramente la preparazione pesa, però pesano molto anche i viaggi. Io sono sempre molto perplesso davanti a preparazioni che dopo una settimana, 10 giorni, pochi giorni per i giocatori reduci dalle nazionali, per dire di allenamento, prendono, partono, vanno ad esempio negli Stati Uniti dove c'è anche attualmente un'estate caldissima a fare amichevoli. Cioè io credo che il nostro sia un campionato che sia per certi versi di livello un po' più basso di certi campionati, squadre per dire molto più forti possono permetterselo. Io penserei come club italiano che il rinunciare per dire a 1-2 milioni con queste trasferte per allenarsi di più potrebbe portarci a recuperare un po' di più un gap che indubbiamente c'è. Le squadre italiane, come successe per dire 20 anni fa, passando per preparazioni più accurate, passando per preparazioni più precise sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista atletico soprattutto, potrebbero recuperare una parte del gap che attualmente è costituito anche dai livelli economici. E io ho sempre, avendoli vissuti, ho sempre il dubbio che queste trasferte chiaramente mettano in difficoltà gli allenatori, mettano le squadre non in grado di completare perfettamente le preparazioni eccetera, e quindi sono sempre pronto a discuterne l'importanza. Sì, Di Carlo, poi la domanda secondo me è anche spontanea, cioè perché certe figuracce le abbiamo fatte quasi solo noi, non le ha fatte il Real Madrid, non le ha fatte il Barcellona, non le hanno fatte i due Manchester, poi le figuracce le abbiamo fatte noi. Detto questo però ha ragione Pincolini, il mestiere dell'allenatore sta diventando sempre più difficile anche per questo motivo, cioè state diventando dei gestori anche di quelli che dovrebbero essere dei momenti della stagione semplicemente dedicati alla preparazione. Beh, sicuramente sì, il calcio è cambiato, lo si vede ogni anno dopo anno, contano molto anche i lavori che si fanno, ma contano soprattutto anche i recuperi, quindi sono d'accordo con Pincolini in questo caso qui che ci sono le trasferte in questo caso qui che pesano moltissimo, perché fra fuso orario, allenamenti, chiaramente uno non vuol toccare, vuol toccare poco quello che è la preparazione per il campionato, perché io penso che sia le grandi squadre, parlo della Juve in questo caso qui, che Conte è un lavoratore, fa lavorare molto le sue squadre, lui non risparmia sicuramente neanche a 38 gradi, 40 gradi il suo programma di lavoro, quindi può succedere di andare incontro soprattutto all'inizio a qualche figuraccia, però poi tutto ritornerà nella normalità quando si ritornerà, quando il campionato comincia a sentire un po' la profumo del campionato, soprattutto quello che riguarda i giocatori più importanti che vanno in forma, perché alla fine ci vogliono anche i giocatori importanti che vadano in forma, perché la Juve ha un gioco consolidato, mentre parlando dell'Inter che ha un allenatore nuovo, ha dei giocatori nuovi, parlando magari sì, deve costruire, deve fare qualcosa di diverso, deve inventare, deve sperimentare. Quindi, secondo me la Juve di Conte magari è quella che magari ha dato un po' più di scalpore, no? nella sconfitta. Sì, anche se io, Di Carlo, però corrono molto, però loro si allenano molto, quindi non li risparmia, in questo caso sono meno freschi sicuramente. Sì, anche se io credo che Conte possa anche permettersi la figuraccia, ad esempio è stata certamente non una buona figura la sconfitta contro i Los Angeles Galaxy, l'equilibrio diventa un po' più difficile da trovare in generale, ad esempio io prendo l'esempio di Mazzarri, ma un anno fa stavamo discutendo della possibilità di Allegri di restare sulla panchina dopo un 5-0 contro il Real Madrid, cioè io non so, però lo chiedo a lei, quanto gli allenatori ad esempio non siano un po' tentati magari di scaricare la preparazione per evitarsi una figuraccia, perché poi quella figuraccia viene letta e interpretata dalla critica, peggio ancora dalla società, quasi fosse una sconfitta di campionato o di coppa. Ma io sono d'accordo con lei su questa cosa qui, perché comunque noi allenatori non è che prepariamo le gare anche di pre-campionato per perderle, noi cerchiamo di capire un po' la squadra a che livello è arrivato, diciamo, di preparazione e di anche, se si può dire, di fame, no? Perché tante volte è inutile il calcio di oggi, ci sono, le motivazioni sono troppo importanti per cercare di arrivare a qualsiasi obiettivo, quindi in preparazione quando si fanno queste, diciamo, questi risultati così 4-0, 5-0, ci sta anche il fatto che quel giorno lì la squadra avversaria sta bene e tu veramente non stai proprio bene, perché comunque la differenza non è di 4-5 gol, vuol dire in un momento normale del, diciamo, della stagione. Certamente, tra Valencia e Inter è il caso di questa stagione, ma lo era anche tra Real Madrid e Milan l'anno scorso, il Real era certamente superiore e lo era anche a marzo, per intenderci, però la differenza non era quella. La differenza non era quella. Assolutamente. Pincolini, ogni tanto si dice e si legge che in realtà ci si può allenare giocando, al netto poi dei trasferimenti e delle fatiche che queste tournée portano. È vero o è leggenda metropolitana? Ad esempio, i professionisti dell'NBA americana, degli sport americani in generale, si allenano poco di squadra, soprattutto dal punto di vista fisico, e fanno un po' tutto da soli. Ma io credo che soprattutto dal punto di vista fisico vada, e lo dico da molto tempo, sia proprio la parte, quella fisica, che vada individualizzata maggiormente. Per dire, qualche club l'ha fatto, perché mi ricordo anche ai tempi di Lippi, per dire, la Juventus andava a fare preparazione fisica a gruppetti in orari diversi. Quella sicuramente è la strada, perché le preoccupazioni, le caratteristiche fisiche dei giocatori sono molto diverse. Il problema non è tanto, per dire, un po' più da soli, un po' più in gruppo, il problema è fare. Ad esempio io penso che in questo calcio sia ormai fondamentale, faccia la differenza, la professionalità di ognuno dei giocatori, perché ad esempio se pensiamo una settimana all'allenamento, poi un sacco di partite, è chiaro che il giocatore che è stato bravo durante il mese di riposo, che ha sempre fatto qualcosa, addirittura che si è allenato tenendo presente i problemi che ha avuto casomai la stagione precedente, cioè l'atleta che si è presentato in condizione atletica buona al primo giorno di allenamento può dopo una settimana anche affrontare certe fatiche, mentre se pensiamo a un atleta che è stato in una vera vacanza per 3 settimane, si è solo mosso un po' una settimana e si trova dopo 8 giorni a giocare contro il Real Madrid, è chiaro che può rischiare la figuraccia e soprattutto può rischiare il pericolo di infortunarsi, perché abbiamo visto anche che l'inizio delle nostre preparazioni è stato costellato già da un'attenzione, da una luce rossa che si è accesa dal punto di vista dell'attenzione sugli infortuni. Dopo quindi ne parliamo, perché ci sono, c'è già un elenco di infortunati, tra l'altro non solo traumatici, anche muscolari, poi certo. Però ne parliamo, io credo che anche gli infortuni traumatici in realtà in un momento in cui la testa è poco lucida e di stanchezza possono avere una correlazione certo. Stretta con la difficoltà di questo momento di preparazione. Di Carlo, c'è un po' di difficoltà da parte del mondo del calcio, degli allenatori, degli staff, anche degli staff dei preparatori, a fidarsi dei giocatori, seguendo il discorso che faceva Pincolini? Sì. Allora, io dico, aggiungo una cosa, che anche i grossi campioni, parlo dei giocatori più importanti che fanno 70 partite all'anno, secondo me hanno bisogno di allenarsi. Ma è una richiesta che viene anche fatta da loro. Cioè non ci si allena giocando, non basta una settimana anche se si sono fatte le vacanze bene nel senso continuando ad allenarsi. Mi scusi, è una richiesta che viene anche da loro, perché loro sanno benissimo che allenandosi evitano infortuni e vogliono per arrivare a fare tante partite bisogna allenarsi, non c'è niente da fare. Poi è chiaro che durante la stagione come dire, è più difficile allenarsi, no? Molto importanti sono i recuperi, molto importanti sono la vita professionale di ogni atleta e anche la capacità dello staff, del preparatore, dello staff medico, di quanto, cioè, ci sono tante cose adesso che si può permettere ad aiutare a recuperare prima, però è importante che loro si allenino adesso. Questo è importante, perché la base bisogna averla, perché sennò si va incontro a degli infortuni che delle volte poi vengono accusati i preparatori, i dottori, gli allenatori e quant'altro ne consegue. Quindi è importantissimo allenarsi in questo periodo qua. Poi del resto personalizzare ormai penso che tutte le squadre, tutti i preparatori, viene fatto a qualsiasi livello oramai. Hanno una gestione interna di capire il lavoro che si va a fare, gli obiettivi che si vogliono perseguire, e soprattutto anche i giocatori che vengono dalle nazionali, perché non dimentichiamo che tanti giocatori hanno fatto preparazione e tanti sono arrivati 10 giorni fa, e quindi cambia anche di entrare in forma un po' più tardi. Quindi c'è molto da gestire, ma soprattutto c'è da fare un lavoro di insieme, che è quello che poi alla fine paga e fa sì che vengano meno gli infortuni e i giocatori importanti tengono la forma più a lungo possibile. Sì, a costo di essere provocatorio, io però voglio dire, poi c'è la pausa per il traffico, che io fatico ad essere solidale però con i calciatori. I calciatori sono complici di quello che succede. Se è vero ad esempio che uno come Messi, il numero uno, che ha finito la stagione scorsa in ginocchio dal punto di vista fisico, ha poi passato giugno e luglio in giro per il mondo a fare esibizioni amichevoli ben pagate, poi è facile secondo me Pincolini, Messi e gli altri a ottobre, novembre chiedere di avere la possibilità di allenarsi o di riposare. Io fatico a essere solidale con i calciatori, dico la verità, Pincolini. Ma chiaramente, cioè, i livelli di professionalità sono assolutamente individuali, per dire, perché come ha parlato benissimo di Carlo, no? Per fare bene bisogna allenarsi, per giocare nella continuità. È chiaro che al discorso allenarsi dobbiamo poi metterci l'alimentazione, il riposo, questo e quell'altro. Sicuramente, per dire, Messi ha dimostrato di sapersi gestire, perché l'anno scorso ha giocato quasi sempre, è chiaro, è andato in difficoltà anche lui, però è passato per pochissimi infortuni, molto piccoli. Cioè, chiaramente ci sono tante cose che fanno poi l'allenamento completo. Però, per dire, lo stimolare attraverso un periodo, parliamo anche pure un po' di vecchia maniera. Io facevo una considerazione qualche giorno fa. Il grande Milan aveva alle spalle periodi di allenamento molto intenso. La grande Juventus del periodo di Lippi aveva alle spalle anche il nome di Ventrone, qualcuno che caratterizzava la sua preparazione. La stessa Juventus di Conte adesso, che è un po' la squadra, il ciclo nuovo italiano, è uscito attraverso le prime stagioni dove è comunque riconoscibile, certamente riconoscibile. Quindi, per dire, quando si sono fatti dei processi, dei programmi, delle ipotesi di lavoro importanti, sono usciti grandi risultati. Questo, dopo, secondo me, un anno o due che hai fatto il risultato, dovresti sottolinearlo un po' di più prima di entrare in quello che è proprio il carosello delle grandi amichevoli, che sicuramente ti danno qualche cosa dal punto di vista economico, ma ti potrebbe dare altrettanto o ancora di più fare grandi figure ormai a livello internazionale. Provare a rilanciare, vediamo. Certo, anche dal punto di vista della preparazione del progetto. Siamo in ritiro, siamo nel precampionato e così la squadra deve lavorare forte durante le partite, ma fisicamente non siamo a livello ancora. No, la squadra a problemi quando manca qualche freschezza, come ho detto. E questo era Rafa Benitez, Vincenzo Pincolini, Mimmo Di Carlo. Questa è una stagione particolare, la stagione che porta al mondiale. Io ho provato a fare un conto, i giocatori delle squadre e delle nazionali più importanti andranno abbondantemente, potenzialmente sopra le 60 partite da qui al mese di luglio dell'anno prossimo. Eppure mi sembra di capire nessuno ha risparmiato nulla, perché è stata un'estate questa in giro per il mondo per tutti, perché più o meno in tutte le nazioni i calendari sono stati fatti in fotocopia rispetto al passato. Io faccio una previsione, quest'anno condizionerà molto l'aspetto fisico e il risultato finale. Io credo che in primavera avremo delle sorprese, avremo da raccontare qualcosa di quanto la condizione fisica condiziona. Pincolini e poi Di Carlo. Ma io credo che agli ultimi anni sempre ha caratterizzato la condizione fisica, perché se leghiamo un po' alla condizione fisica anche il discorso infortuni, vediamo proprio che grandi club si sono trovati a giocare senza, in Italia soprattutto, senza grandi giocatori che chiaramente potevano fare la differenza. Quindi, per dire, la stanchezza, gli infortuni, la mancanza di continuità sono tutti elementi di questa della problematica della preparazione che non è solo di un calcio fatto a secco attraverso delle corse, ma è nel complesso degli allenamenti. E quindi secondo me questo è un problema che ancora in Italia solo in certi momenti andiamo ad affrontare, spesso quando siamo nei problemi. Di Carlo, cosa succede a primavera? Aggiungo due cose. Intanto si gioca in Italia, e in Italia c'è molta più pressione che negli altri paesi, quindi in Italia perdere una partita di Coppa Italia significa avere già mezzo processo, per far capire anche a livello mentale la differenza. Sì, succede anche perdendo un'amichevole, figuriamoci quando poi conta. Voglio far capire questo qui, quindi oltre alla preparazione fisica a marzo si arriva anche con, si è carichi magari anche delle tensioni, no? che comportano durante l'anno ad arrivare a marzo al momento cruciale. E quindi le squadre, io parlo delle grandi squadre, vogliono vincere Champions League, vogliono vincere il campionato e vogliono arrivare in finale di Coppa Italia per arrivare a giocarsi la finale. Quindi sono tutti obiettivi importanti, quindi le rose devono essere molto più importanti, perché all'estero giocano quasi sempre gli stessi giocatori, perché c'è molta meno pressione, molto meno, e quindi ci sono molti meno infortuni anche sotto l'aspetto qui a livello mentale. E qui invece in Italia bisogna avere i ricambi, e i ricambi delle volte non sono all'altezza. Dei grandi giocatori che ci sono in questo momento qui nei primi 11 giocatori che scendono in campo, e quindi è molto importante arrivarci, ma arrivarci anche con le giuste, io parlo sempre, le giuste motivazioni, perché fanno la differenza. E quest'anno secondo me c'è una squadra che secondo me quest'anno che darà il sicuro a tutti, che è la Fiorentina, perché mi sembra che sia di basso profilo, nessuno ne parla, ma secondo me la Fiorentina quest'anno può essere la sorpresa del campionato. Sì, anche se a proposito di impegni, la Fiorentina farà l'Europa League, i numeri dicono che l'Europa League sottrae tantissimo dal punto di vista delle energie fisiche, delle energie psicologiche, tutto questo si traduce in tantissimi punti, è successo negli anni scorsi, tutti quelli che hanno partecipato, io non so se la Fiorentina è attrezzata per affrontare il doppio impegno. Infatti vuol dire quello lì, che stanno facendo una squadra, secondo me, che hanno dei ricambi che possono anche superare all'altezza all'Europa League e anche alla Coppa Italia, proprio dire, perché comunque secondo me la squadra che, detto, ha il basso profilo, però potenzialmente è una squadra che può arrivare fra le prime tre. Sì, certamente si sta attrezzando. A proposito dei calendari, lo dico io, oggi c'è l'amichevole Italia-Argentina per salutare e celebrare anche Papa Francesco, questa è una data FIFA, quindi un po' tutti gli allenatori hanno perso giocatori in giro per il mondo, li ritroveranno ad esempio in Italia a ridosso dalla finale di Supercoppa, poi i calendari sono questi, è difficile fare meglio, però ad esempio in Italia, in una stagione che termina con il mondiale, la Lega Calcio ha fatto l'esatta fotocopia del calendario dell'anno prima. Secondo me si poteva fare meglio. Torniamo agli infortuni, Pincolini, ne parlavamo anche prima. La spia in realtà si è accesa già a partire da quest'estate. Abbiamo visto infortuni muscolari, abbiamo visto infortuni da trauma, il più grave è quello di Bonera, 3 mesi per la rottura della rotula. Però ci può essere una relazione, forse non è un caso se capitano in agosto. Ma secondo me non è un caso che l'allenatore voglia lavorare nel poco tempo che ha a disposizione, e in questo modo c'è il rischio di fare troppo rispetto al momento che si deve interpretare, perché secondo me sicuramente chi ha molti infortuni è partito un po' troppo forte. D'altra parte si è continuamente non fra l'incudine e il martello, ma fra l'incudine e l'incudine, per cui, per dire, non si sa da che parte girarsi. Quella sicuramente è una spia che si voleva lavorare, al Milan si cercava di lavorare per fare, per dire, un corretto precampionato, casomai non ci sia riuscito perché qualche variabile è cambiata. Però io credo che gli allenatori, anche interpretando le parole di Di Carlo, gli allenatori vogliono sempre lavorare, sono poi i club che decidono casomai di avere dei calendari e partire, come stiamo dicendo noi, sotto traccia, come un po' capitata alla Fiorentina, può essere un grande vantaggio per quello. Sono anche molto d'accordo con Di Carlo nel sottolineare come in Italia ci sia una pressione che all'estero non c'è. Io ho lavorato tanti anni all'estero e all'estero è importante la partita, non quello che succede negli allenamenti, non quello che succede nelle amichevoli e non quello che succede, per dire, in altri frangenti. Quindi avere meno pressione ti aiuta sicuramente nel recuperare anche la fatica. E io già proprio su Radio 24 parlai l'anno scorso come, se vogliamo fare dei numeri, un 15-20% degli infortuni secondo me sono proprio figli anche solo dello stress. Certamente, Pincolini, lo possiamo dire che potrebbe essere in ritorno in Italia dopo l'esperienza all'estero? Sì, penso che sia il momento, anche se venire via dall'estero in questi momenti è veramente molto difficile e piange il cuore per le situazioni di lavoro che si lasciano. Però potrebbe esserci questa sorpresa. Abbiamo ancora un paio di minuti, quindi vi chiedo la sintesi per provare a tirare le fila. Una domanda per Mimmo Di Carlo, ed è questa. Si parla tanto di turnover, secondo me il turnover non ci sarà se non poco, in maniera residuale, anche nella stagione che va a iniziare, perché poi alla fine agli allenatori interessa vincere. È difficile pensare di tenere fuori i giocatori che pesano, perché poi avranno a che fare con una stagione che termina a luglio. Ma è normale, voglio dire, perché comunque una squadra ad 11 giocatori, di cui quei 4-5 che sono veramente i perni della squadra, dove fanno la differenza a livello di personalità, ma anche a livello degli stessi giocatori che ci girano intorno, che sanno che giocano con Pirlo. Faccio un esempio, per me che diventa un giocatore importantissimo. Sì, ma il nome può essere proprio quello, ad esempio, a prendere io prendere dico ad esempio. Perché è un giocatore carismatico. Perché ha una certa età, perché in tanti si stanno anche ponendo il problema che possa o no giocare 50-60 partite a quel livello. Però posso dire una cosa, sì. Questi giocatori qua vogliono arrivare ai mondiali, vogliono arrivarci in forma e vogliono arrivarci giocando. Cioè, questa è una cosa che magari tanti dicono, ma se è l'anno dei mondiali forse i giocatori tirano un po' indietro. E no. Sono i primi loro. Pincolini, per chiudere, proprio perché arriviamo al mondiale, lei ne ha vissuti, possiamo dire serenamente che Prandelli non si faccia illusioni, non sarà risparmiato nulla perché poi c'è l'avventura in Brasile? Ah no, sicuramente, per dire, ormai le nazionali vogliono il massimo, i club vogliono il massimo, le amichevoli contano di più, però io credo anche, come ha detto Di Carlo, che una squadra ha 4-5 giocatori fondamentali, ma anche, per dire, fare turnover a carico degli altri sarebbe già molto importante. Io dico che al di là del fare turnover, molte volte è importante anche sui giocatori fondamentali non rischiarli, perché ci sono dei momenti dove si capisce che ci può essere, per dire, un rischio. Una settimana, per dire, fatta rinunciando a un giocatore per rilanciarlo dal punto di vista dell'allenamento può aiutare, ad esempio, ad evitare molto, un infortunio molto. Certamente. Ad esempio, sempre riferendoci ai grandi network professionistici americani, nel basket il minutaggio dipende a seconda delle condizioni e in funzione del minutaggio viene studiato in maniera scientifica. Abbiamo finito, grazie a Mimmo Di Carlo e a Vincenzo Pincolini. Arrivederci. Grazie, un saluto a tutti. Grazie a voi, noi torniamo domani in punto alle 14 in punto. Io ringrazio Franco Piantanide, autore di questa puntata, Peter Bescapè in regia. Domani è Ferragosto, ma noi ci siamo dalle 14, tutti convocati. Un saluto da Giovanni Capuano.